Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quali saranno le destinazioni, le tecnologie, le abitudini dei viaggiatori nei prossimi 10 anni? Lo scopriremo tra pochissimo nel primo dei nostri approfondimenti per capire una volta di più quanto sia importante per un settore riflettere sugli scenari futuri e per tutti noi consumatori imparare ad individuare i segnali di un futuro che è molto più vicino di quanto ci si possa immaginare. Per immaginarci il futuro del cibo, invece, dobbiamo saper ascoltare i racconti della tradizione, della terra, della cultura gastronomica e della biodiversità, come ci insegna l'evento Clou dedicato al cibo buono, pulito e giusto, prodotto dagli agricoltori di tutto il mondo. Il marketing crede sempre di più nella bicicletta. Per la nostra rubrica dedicata al mondo delle due ruote parliamo di un'iniziativa che punta ad incentivarne l'uso trasformando le pedalate, pensate, in traffico telefonico. Focus sui trend dedicato infine alla fuga nella natura attraverso il design. Dai pezzi di montagna in salotto fino alle bottiglie di pioggia. Il consumatore del resto oggi, lo racconteremo nella nostra riflessione finale, non vuole più essere solo accontentato ma sorpreso. Parola d'ordine, diversità. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale. Diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Solo metafora dell'innovazione, il viaggio, Star Trek insegna, è sicuramente uno dei settori più affascinanti per immaginare gli scenari futuri. Il motore di ricerca viaggi Skyscanner ha voluto immaginare il viaggiatore del 2024, lo ha fatto con una ricerca che racconta aeroporti senza code, con gallerie d'arte e giardini come sale d'attesa, aerei in cui sarà possibile tenere conversazioni 3D con gli amici e i familiari e dispositivi che tradurranno ad esempio in simultanea la conversazione con il nostro tassista cinese, il tutto sulla scia di tecnologie già esistenti. Uno studio che ha coinvolto un team di oltre 50 tra esperti, ricercatori, manager e futurologi, come ci racconta Filippo De Matteis, marketing manager di Skyscanner Italia. Lo ha intervistato Adriano Palazzolo. Il rapporto contiene diverse curiosità. Il viaggiatore del futuro avrà la possibilità di visitare strutture sottomarine e di fatto ne esistono già alcune sono in fase di costruzione, penso ad esempio ad un hotel, si chiama il Water Discus Hotel a Dubai, che è costruito a 10 metri di profondità nell'oceano e ha 21 suite che di fatto sono delle suite acquario immerse nell'oceano. Lo stesso discorso può valere anche per gli hotel nello spazio. Ci sono dei progetti di costruzione di strutture spaziali che si suppone verranno costruite nell'atmosfera terrestre, nei primi strati dell'atmosfera terrestre. Per quanto invece riguarda ad esempio la tecnologia che verrà utilizzata all'interno degli aerei, la suggestione forse più grande è quella di assistenti di volo non più in carne ed ossa, ma in forma di ologrammi. Quali saranno le nuove esigenze di chi pianifica una vacanza nel futuro? L'esigenza più grande sicuramente sarà quella di iperpersonalizzare la sua esperienza di viaggio. Il viaggiatore del futuro vorrà sempre più che gli vengano offerte delle soluzioni di viaggio in linea con le sue esigenze e vorrà sempre più, una volta che avrà prenotato e pianificato il suo viaggio, vivere un'esperienza quanto mai unica. Quindi ad esempio uno degli spunti più interessanti è quello ad esempio delle stanze d'albergo completamente personalizzate all'interno delle quali il turista potrà trovare le foto dei suoi cari, potrà avere sulle pareti gli scenari, gli sfondi quelli che meglio preferisce. Ecco, e quali saranno a questo proposito i nuovi strumenti a disposizione dell'utente per prenotare e ricercare una vacanza ideale? Beh, assisteremo di qui ai prossimi 10 anni a un cambiamento che potrebbe anche essere definito epocale, ed è un cambiamento che è già iniziato. Questo cambiamento ha a che fare con l'esplosione, la crescita dei cosiddetti big data e delle ricerche semantiche. Cosa sono i big data? I big data sono tutte le tracce che di noi lasciamo all'interno della rete, quindi la ricerca semantica del futuro prossimo consentirà alle compagnie di viaggio piuttosto che ai meta search di incontrare in maniera quanto più aderente possibile alle proprie esigenze il viaggiatore del futuro. Per farti un esempio, sarà possibile tracciare, diciamo così, o intercettare perlomeno i gusti del viaggiatore del futuro in fatto di destinazioni, in fatto di musica, in fatto di abitudini. In base all'analisi di questi dati si riuscirà a suggerire nel momento giusto alla persona giusta il viaggio giusto che fa per le sue esigenze, insomma. Repubblica Dominicana. 4.000 delegati per più di 950 comunità del cibo provenienti da 158 paesi nel mondo per migliaia di prodotti da conservare e tutelare. Grecia. Sono i numeri di Salone del Gusto e Terra Madre 2014, la manifestazione ideata da Slow Food in corso al Lingotto di Torino. Temi centrali di questa 10ª edizione: l'Arca del Gusto, il progetto per la tutela della biodiversità e l'agricoltura familiare, che viene celebrata proprio quest'anno dalla FAO e da cui proviene, pensate, il 72% dei prodotti consumati nel mondo, come ci ha spiegato Gaetano Pascale, che è il presidente di Slow Food Italia. La prima sottolineatura è che l'agricoltura familiare finalmente entra al centro di tanti ragionamenti per quanto riguarda la pianificazione alimentare del nostro pianeta. Dobbiamo anche tener conto di alcuni dati significativi. Oggi le aziende agricole a conduzione familiare occupano solo il 12% delle superfici agricole sul nostro pianeta, però producono più della metà del cibo per gli abitanti del pianeta. Questo dato è significativo soprattutto alla luce del fatto che molti hanno considerato questo modello di produzione un modello ancorato al passato e comunque non adatto a soddisfare le esigenze alimentari del pianeta. Questo è il primo elemento. L'altro elemento sulla biodiversità: l'arca del gusto per noi è lo strumento per tutelare la biodiversità, è il primo strumento messo in campo da Slow Food, che oggi ritorna potentemente all'attenzione. L'obiettivo è di raccogliere 10.000 prodotti in tutto il mondo. Il Salone del Gusto, da questo punto di vista, offre anche un'opportunità ai visitatori di portare il proprio prodotto da salvare, e questa è anche un po' l'iniziativa che rende il Salone del Gusto e Terra Madre un evento interattivo in cui i visitatori non sono solo visitatori ma sono dei partecipanti a tutti gli effetti. Quindi il crowdsourcing, in questo caso applicato alla creazione di un patrimonio collettivo di specie da salvare. Ecco, in che misura è cresciuta la cultura del cibo anche nella consapevolezza del consumatore oggi? Beh, sono stati fatti dei passi in avanti significativi, sicuramente si parla di più e con maggiore consapevolezza, però è ancora, bisogna dire, in larga parte ancorato a schemi commerciali l'approccio al cibo, il che da una parte è naturale, da un'altra parte probabilmente invece c'è tanto da lavorare. Faccio degli esempi così magari rendo meglio l'idea. Oggi la maggior parte delle persone che va a fare la spesa nei supermercati è abbastanza convinto che la produzione del cibo sia ad appannaggio esclusivo dell'industria alimentare. Ecco, noi dovremmo probabilmente lavorare molto su questo aspetto affinché si arrivi anche a far capire che la produzione del cibo parte dalla terra, dalla campagna. Questa è una delle missioni di Slow Food, ma una delle missioni che ci poniamo e che concentriamo anche nell'evento Salone del Gusto e Terra Madre, che ha un obiettivo didattico importante di formare i consumatori, ma soprattutto di formare le giovani generazioni e quindi i futuri consumatori. Bikeology. Convertire chilometri percorsi in bicicletta in minuti di traffico telefonico e megabyte di navigazione internet. Ci piace molto l'iniziativa protagonista questa settimana di Bikeology, ce la racconta Marco Argiroffi di Coop Voce. Benvenuto. Grazie per l'opportunità di spiegare questo nuovo servizio. Un'applicazione denominata Vivi Bici che, grazie alla tecnologia GPS, permette a chi la utilizza, scaricandola gratis, di tracciare l'attività motoria di chi si sposta in bici o anche a piedi, camminando, correndo, con tante informazioni utili di carattere, diciamo, sportivo. Ma la vera innovazione assoluta è costituita dai chilometri voce. Convertire i chilometri percorsi in bicicletta o a piedi in traffico telefonico gratuito. La possibilità è naturalmente riservata ai nostri clienti, quindi ai clienti con voce, che possono attivare l'offerta e il servizio di trasformazione direttamente dall'app. Ma come vengono certificati questi chilometri in bicicletta? È un'autodichiarazione oppure c'è un modo per verificarli? Siccome lo scopo è quello di incentivare con una sorta di premio comportamento virtuoso, quindi di chi si muove a piedi in bicicletta, abbiamo implementato un algoritmo di controllo per cui il percorso è suddiviso in singoli chilometri. Sul singolo chilometro viene, appunto, il chilometro voce, viene applicato un controllo sulla velocità media e la velocità massima. Grazie a Marco Argiroffi per essere stato con noi. Grazie a voi, una cosa sola volevo aggiungere, importantissima. Questo progetto è stato portato avanti e costruito grazie anche alla collaborazione tecnica di FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, e del progetto Sicurstrada del gruppo Unipolis. Essere e avere. Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli alberi, capacità d'espressione e, per così dire, un'anima. Vincent van Gogh. Focus sui trend. Natura in trappola, così abbiamo deciso di definire la tendenza di questa settimana. È una tendenza che arriva dal mondo del design, ma rappresenta l'indizio, per così dire, di un cambio di paradigma, in qualche modo un passo in avanti nella relazione del consumatore con il concetto di natura. Non più una naturalità intesa come riproduzione artificiale della natura, non solo l'utilizzo di materiali naturali, grezzi. Ora il design vuole in qualche modo intrappolare la natura, catturarla, fotografarla nel suo stato più autentico, congelando, per così dire, l'istante. È una tendenza che ci segnalano, come sempre, i ricercatori di Future Concept Lab. Lucia Cromesca, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno. Facciamo subito qualche esempio, Lucia, così da far capire di cosa stiamo parlando. È chiaro che, essendo circondati da schermi e device elettronici 24 ore su 24, tutti noi consumatori sogniamo ambienti naturali incontaminati. Ecco che i progettisti ci permettono di avere delle alternative, quasi delle fughe dalle nostre realtà, perché loro riescono a catturare la natura e farci vivere delle nuove avventure esistenziali, anche brevi, nel proprio spazio domestico e non solo. E vediamo gli esempi. Il primo è il Dolomite, un progetto che è stato presentato durante il London Design Festival all'interno della mostra di Elements of Craft. Un duo di progettisti italiani, Andrea Forti e Aurora Dalfara, hanno deciso di tagliare blocchi di pietra presa dai Dolomiti, praticamente la pietra locale presa da una cava abbandonata nel cuore delle Dolomiti, ricoprirla di una resina e conservare la superficie, che è piena di muschi e grezza e comunque è rappresentativa della topografia geografica, e fare un tavolino e uno sgabellino. Un'idea molto simpatica. Quindi un pezzo di montagna in salotto. Sì, senza dubbio, catturare la realtà. Poi abbiamo anche una installazione molto importante che ha fatto discutere, molto spettacolare, alla Hall dell'ingresso della Neue Nationale Galerie di Berlino, quella disegnata da Miss Van der Rohe, in cui David Chipperfield ha deciso di installare 144 4 tronchi d'albero con una base di pietra e l'ha chiamato Stick and Stones. Anche lì vediamo questa invasione anche della natura oltre ad intrappolarla. Invitiamo come sempre gli ascoltatori ad andare a vedere le immagini sulla nostra pagina Facebook. Ecco Lucia, una sorta di selfie quasi, vorrei dire un autoscatto della natura che entra nel design. Entra nel design, entra nelle case, ma entra anche nei luoghi pubblici come per esempio le camere d'albergo. Giovani progettisti Jos Blon e Jasper Eustace ad Amsterdam al Volks Hotel hanno deciso di dedicare una camera a questa idea della montagna. L'hanno chiamato la Edmund Room. Più che altro è una struttura freestanding ispirata a un paesaggio montuoso fatto di legno e gomma, ma la particolarità è che ha delle scale integrate che permettono a chi vive all'interno di questa camera d'albergo di salire per fare un bagno nella vasca collocata in cima di questa cosiddetta montagna. Come se fosse una sorgente naturale. Molto bello anche dal punto di vista estetico. Però abbiamo anche altri esempi che comunque si ispirano alla natura, ma in una maniera anche molto più intelligente, più smart, come ha fatto Tehila Gai, un progettista israeliano che ha presentato la sua Anda Chair, un nuovo progetto di mobile gonfiabile. Sembra un po' passé, cioè perché molto anni 60, ma la sua progettazione è veramente ingegnosa. Allora lui ha pensato a questa nuvola gonfiabile che appoggia su una base di legno, ma ha fatto sì che la seduta è talmente ben fatta ergonomicamente che l'aria fa da collante di tutte le altre parti, facendo sì che la base di legno sia stabile. Così da un lato lui riesce a contenere i costi della progettazione, dall'altro lato anche proporre un progetto veramente poetico. Per chiudere ti voglio chiedere, c'è in qualche modo anche una componente di provocazione, un invito alla riflessione per il nostro rapporto con la natura? C'è sempre la progettazione progettuale. Ecco, arriva da Giappone, sempre dai nostri tanto amati Nendo, i giapponesi che lavorano molto spesso questa logica del paradosso. Il progetto che abbiamo visto a Maison Objet di Parigi, l'ultima edizione, si chiama Rain Bottle Installation, e loro hanno pensato di intrappolare la pioggia all'interno di 20 bottiglie acriliche, cioè 20 diversi tipi di pioggia, tra l'altro, perché ogni bottiglia ha un suo nome e contiene un diverso tipo di pioggia, perciò dalla pioggiarella fine all'acquazzone improvviso. Sicuramente anche qui Nendo ci dice: ok, il nostro progetto non evidenzia più la riscoperta della natura come contesto di vita felice, questo diventa meno rilevante, ma è un statement importante che ci fa riflettere che l'importanza in questo momento in termini progettuali è la deindustrializzazione. Ecco, qui è la provocazione di questo gruppo. Il consumautore. Siamo al salotto finale, chiamiamolo così, di Essere e Avere, in compagnia come sempre di Francesco Morace. Ben ritrovato. Un saluto a te Maria Luisa e agli ascoltatori. Tra le peculiarità del nuovo consumatore sempre più informato, consapevole, attivo nel suo rapporto con la marca, così come lo stiamo raccontando di puntata in puntata, Francesco, c'è una fortissima propensione alla diversità. Sì, questa proprio è la caratteristica del consumautore, no? Rispetto al consumatore classico, mentre in passato ci si aspettava qualcosa che rientrava in uno stile di vita, in uno status, oggi invece si vuole essere sorpresi per poi poter reinterpretare quello che le aziende e i prodotti ci suggeriscono. Quindi basta omologazione, un po' il trend dominante degli anni 80 e 90, se così vogliamo dire, si cerca una differenziazione. Sì, è proprio come nel turismo, no? Quando noi viaggiamo andiamo alla ricerca di ciò che è diverso da noi e dal luogo in cui viviamo. Ecco, il mondo dei consumi da questo punto di vista acquisisce delle logiche che sono quelle della visita turistica, quindi biodiversità sicuramente, ma anche diversità qualità di stile è qualcosa che ci sorprende. Trovi che ci sia un settore in particolare nel quale questa caratteristica venga declinata più di altre oppure è trasversale? Allora, la caratteristica è trasversale, sicuramente il mondo agroalimentare, però questo riguarda anche il modo di, ad esempio, lavorare nelle aziende. E qui mi piace ricordare che ci sono aziende che stanno, ad esempio, introducendo l'arte in azienda. Questo, ad esempio, è la missione della Fondazione Elica, che è un'azienda che produce cappe per la cucina, ma che ha deciso di usare l'arte per formare i propri dipendenti. Grazie a Francesco Morace, grazie a Fabio Cantadori in regia. Prima di salutarvi però devo dirvi una cosa molto importante: avere cambia collocazione in palinsesto, il cantiere è ancora aperto, non possiamo dirvi giorno e orario, tenete d'occhio la nostra pagina Facebook, il sito della radio e i promo in onda. Sabato prossimo alle 16.30 però in questa collocazione ci saremo comunque per raccontarvi a nostro modo nuove abitudini di vita e di consumo. Come sempre, molte sorprese dunque, non ve le posso ancora svelare. Stay tuned. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.